Ad alta voce. Enzo Turrin legge Jacob von Gunten di Robert Walser. Traduzione di Emilio Castellani. Decima puntata. Molto divertenti sono a volte le nostre lezioni di ginnastica e di ballo. Dover mostrare abilità non è privo di rischi. Si possono fare delle gran brutte figure. C'è da dire che noi allievi non ci deridiamo a vicenda. Davvero no? Oh, altro che. Si ride con gli orecchi, se non possiamo ridere con la bocca, e con gli occhi, come ridono volentieri gli occhi. E imporre regole agli occhi, beh, sì, è possibile, ma è piuttosto difficile. Per esempio, qui non si può ammiccare. È come farsi beffe di uno, perciò da evitarsi. Ma ogni tanto qualche strizzatina d'occhi ci scappa. Soffocare così totalmente la natura è una cosa che non va. Eppure va, invece. Ma anche se si sia riusciti a svezzarsi completamente dalla natura, c'è pur sempre un'ombra, un residuo che resta visibile. Pietrone, ad esempio, ha una gran difficoltà a spogliarsi di quella sua natura tutta particolare, personalissima. Certe volte, quando deve ballare e gli tocca muoversi con eleganza e fare il grazioso, sembra un sol pezzo di legno. In lui il legno è proprio un'inclinazione naturale, una specie di dono divino. Chi può resistere al riso vedendo un ciocco di legno sotto forma di spilungone umano? C'è da ridere di cuore. Una risata è il perfetto contrario di un pezzo di legno. È qualcosa che infiamma, come se dentro a qualcuno si accendessero dei fiammiferi. Il rumore che fanno i fiammiferi è proprio quello di una risata soffocata. A me piace molto, moltissimo, quando si impedisce alla mia risata di scoppiare. Non poter dare libero corso a ciò che vorrebbe scaricarsi produce un pizzicorino delizioso. Ciò che non può essere, ciò che deve sprofondarsi dentro di me, mi è caro. E così avviene che questo slancio represso diventa più doloroso, ma ad un tempo più prezioso. Sì, lo ammetto, mi piace essere represso. Anzi, no, non sempre, anzi, che questo signor anzi si levi di torno. Ecco che cosa volevo dire. Non poter fare una cosa è come farla doppiamente in un qualche altro modo. Non c'è nulla di più insipido di un facile, sbrigativo consenso dato a fior di labbra. A me piace meritare le cose, conoscerle per esperienza. Anche una risata, mettiamo, ha bisogno di essere sperimentata a fondo. Quando dentro di me sobbalzo dal ridere, quando davvero non so più dove ficcare tutta quella polvere sibilante, allora so che cos'è una risata, allora ho riso tutto il risibile e possiedo un'idea completa di ciò che mi sconvolgeva. Ne consegue che devo assolutamente ritenere e serbare come ferma certezza che i precetti inargentano l'esistenza, per non dire che la indorano, insomma, la rendono più attraente. Poiché di sicuro quello che vale per il fascino del riso proibito vale anche per quasi tutti gli altri oggetti e le altre voglie. Il divieto di piangere, ad esempio, fa più grande il pianto. Ed essere privati dell'amore non significa altro che amare. Se non mi è permesso d'amare, amo 10 volte di più. Ogni cosa proibita vive in misura centuplicata, perciò vive di vita tanto più intensa quello che dovrebbe essere morto. Questo vale per il piccolo come per il grande. E questo sia detto così alla buona, nei termini più quotidiani, ma proprio nel quotidiano stanno le vere verità. Mi lascio un pochino trascinare dalle chiacchiere, no? Lo riconosco che chiacchiero, ma bisogna pure riempire in qualche modo le righe. Quanto deliziosi sono i frutti proibiti. Forse ora tra il signor Beniamenta e me oscilla qualcosa visibile a entrambe le parti e che è simile a un frutto proibito. Però né l'uno né l'altro parla apertamente. Rifuggiamo dall'usare un linguaggio chiaro, e questo è senza dubbio degno d'approvazione. Io, per esempio, non ho nessuna simpatia per i trattamenti amichevoli, questo parlando in generale. Certe persone che mi sono affezionate mi sono odiose. È un fatto che non potrei qui sottolineare abbastanza. Naturalmente provo gusto anch'io alla dolcezza, al tratto cordiale. Chi potrebbe essere tanto ruvido da aborrire affatto ogni intimità, ogni calore di presenza? Ma mi guardo sempre dal cercare familiarità. Non so, ma devo veramente possedere una bravura particolare nel convincere tacitamente certe persone della goffaggine dei loro approcci, o perlomeno ritengo sia difficile insinuarsi nella mia confidenza. Il mio calore mi è prezioso, molto prezioso. E chi voglia conquistarselo deve procedere cautamente, e questo vuol fare ora il direttore. Questo signor Beniamenta evidentemente vuol possedere il mio cuore e stringere amicizia con me. Per il momento, tuttavia, lo tratto in modo glaciale e chissà, può anche darsi che non voglia saperne per nulla di lui. Sei giovane, mi dice il signor direttore. Sei traboccante di ogni aspettativa. Un istante, scusami, volevo dirti una cosa e l'ho già dimenticata. Devi sapere, Jacob, che ho un mucchio di cose da dirti, ma guarda un po' come si possono dimenticare da un momento all'altro le cose più belle e più profonde. E vedi, il tuo viso è come la memoria stessa, la buona, fresca memoria, mentre la mia già sta invecchiando. La mia testa è vicina a morte, Jacob. Scusami per questi discorsi un po' troppo inteneriti e confidenziali. Mi viene proprio da ridere. Ti sto chiedendo scusa mentre potrei picchiarti, se lo trovassi giusto. Con quanta durezza mi fissano i tuoi giovani occhi. Oh, e potrei sbatterti contro il muro fino a renderti sordo e cieco per tutta la vita. Non so davvero come sia avvenuto che io mi sia totalmente spogliato di fronte a te dei miei poteri di superiore. E tu certamente ne ridi in cuor tuo, te lo dico sottovoce, sta attento. Devi sapere che vado soggetto ad accessi di furore. E allora, prima che riesca a dominarmi, ho già perduto ogni cognizione. Oh no, ragazzino mio, non temere. È una cosa talmente impossibile che qualcuno ti faccia del male. Ma di un po', cosa volevo chiederti? Dimmi, non hai proprio paura neanche un pochettino? E sei giovane e pieno di speranze? E adesso, né vero, troverai presto un impiego conveniente? No? Sì, è così. Ed è questo che mi addolora, perché, pensa, qualche volta mi sembra che tu sia come un mio fratello minore o comunque qualcos'altro che per natura mi sia vicino. Tanta è l'affinità che sento in te, nei tuoi gesti, nel tuo modo di parlare, nella tua bocca, in tutto, per dirla in una parola, in te. Io sono un re spodestato. Sorridi? Trovo semplicemente delizioso, sai. Che proprio in questo momento che sto parlandoti di re spodestati, di re privati dei loro troni, sulla tua bocca spunti un sorriso. Un tal sorriso da monello. Hai giudizio, tu, Jacob. Oh, discorrere con te è talmente piacevole. Si prova come un brivido di godimento nel comportarsi in tua presenza con un po' di debolezza, con maggior dolcezza del solito. Sì, tu. Letteralmente provochi alla noncuranza, alla rilassatezza, all'abbandono della dignità. Ti si attribuiscono, così credi, degli spiriti nobili, così che uno si sente spinto suo malgrado a smarrirsi davanti a te in belle e dilettevoli dichiarazioni e confessioni. Come me, per esempio, che sono il tuo padrone e che potrei schiacciarti, mio povero piccolo verme, purché ne avessi voglia. Dammi la mano. Così. Lascia che te lo dica. Hai saputo conquistarti il mio rispetto. Ho grande stima di te. E io sono in diritto di dirtelo. E ora una preghiera. Vuoi essere il mio amico, il mio piccolo confidente? Fallo, te ne prego. Ma voglio lasciarti tempo di riflettere a tutto questo. Puoi andartene. Va, per favore, lasciami solo. Così mi parla il mio direttore, colui che, per usare le sue parole, può schiacciarmi a volontà. Adesso non mi inchino più a lui, ne soffrirebbe. Che discorsi m'ha tenuto di respodestati? Non sprecherò i miei pensieri intorno a tutta questa faccenda come lui mi ha raccomandato di fare. Continuerò semplicemente a osservare le forme. In ogni caso, si tratta di stare in guardia. Ha parlato di accessi di furore, un'idea ben sgradevole, devo dirlo. Finire sfracellato contro il muro, questo poi no. Parlarne alla signorina? Oibò, neanche per idea. Ho abbastanza coraggio per mantenere il segreto su certe stranezze e anche abbastanza giudizio per risolvere da solo una questione complicata. Forse il signor Beniamenta è pazzo. Comunque sia, è lui che fa la parte del leone e io del topo. Belle queste situazioni che si sono intrufolate nell'istituto. In ogni caso, non parlarne a nessuno. A volte il tacere su una faccenda vuol dire aver già vinta la partita. Tutte sciocchezze. Basta. Che fantasie mi vengono in mente ogni tanto. Da rasentare l'assurdità. Di colpo, senza che potessi impedirlo, ero diventato un condottiero degli anni intorno al 1400. No, un po' dopo, al tempo delle campagne di Lombardia. Eravamo a mensa, io coi miei ufficiali. Avevamo vinto da poco una battaglia e nei prossimi giorni la nostra fama sarebbe corsa per tutta Europa. Bevevamo ed eravamo allegri. Non in un locale si svolgeva la nostra tavolata, no, in campo aperto. Il sole era già al tramonto quando davanti ai miei occhi, saettanti assalto e vittoria, venne condotto un essere, un misero diavolaccio, un traditore colto in flagrante. Tremava l'infelice e teneva gli occhi bassi, ben sapendo di non aver diritto di guardare in faccia il capitano. Io gli rivolsi uno sguardo fuggevole, altrettanto distrattamente, e fuggevolmente guardai quelli che me lo avevano portato. Infine concentrai la mia attenzione sul bicchiere colmo di vino che mi stava dinanzi, e questi tre gesti significavano: andate e impiccatelo. Subito gli uomini lo afferrarono, ma quell'empio gridò come disperato. Più ancora, gridò come se stessero straziandolo, fin d'ora straziandolo con mille atroci supplizi. Nelle battaglie e negli scontri di cui la mia vita era piena, i miei occhi avevano udito suoni d'ogni genere e i miei occhi erano più che abituati a spettacoli terribili e calamitosi. Eppure, strano a dirsi, quello non riuscivo a sopportarlo. Di nuovo mi volsi al condannato e, facendo cenno ai soldati, «Lasciatelo andare», dissi in fretta col bicchiere alle labbra. Allora avvenne qualcosa di sconvolgente e di ripugnante insieme. L'uomo a cui avevo fatto grazia della vita, di quella sua vita di traditore, di brigante, si precipitò come un folle ai miei piedi e baciò la polvere dei miei stivali. Lo spinsi via, pieno di schifo e di orrore. Mi sentivo penosamente oppresso da quel mio praticare la violenza, da quella forza con cui potevo trastullarmi a volontà, come fa il turbine con le foglie. Risi allora e comandai all'uomo di allontanarsi. Egli aveva quasi smarrito la ragione. Una gioia bestiale irruppe dai suoi occhi e dalla sua bocca. Balbettò dei grazie e se ne strisciò via, mentre noi altri ci abbandonammo fino a notte inoltrata a sfrenate gozzoviglie e sbevazzamenti. E all'alba eravamo ancora seduti a banchettare quando io, con dignità e grandiosità che mi muovevano quasi al sorriso, ricevetti il messo del Papa. Ero l'eroe, il sovrano del giorno. Dal mio umore, dal mio dichiararmi pago, dipendeva la pace di mezza Europa. E tuttavia, di fronte ai diplomatici, recitai la parte dello sciocco del Bonaccione. Mi andava così. Ero un po' stanco. Smaniavo dal desiderio di tornare in patria. Mi lasciai riprendere tutti i privilegi che la guerra mi aveva dato. Naturalmente, in seguito, venni elevato al titolo di conte. Poi mi sono sposato e ora sono caduto così in basso da non provare più nessun imbarazzo a essere un piccolo, umile allievo dell'Istituto Beniamenta e ad avere compagni come Kraus, Schacht, Hans e Schilinski. Mi devono gettare nudo sulla strada e allora forse mi figurerò di essere il Signore Iddio che tutto abbraccia. È ora che deponga la penna. Per esseri così piccoli e umili come noi allievi, il comico non esiste. La creatura avvilita prende ogni cosa sul serio, ma anche alla leggera, quasi frivolmente. Per me, la nostra lezione di ballo, di maniere e di ginnastica ha la stessa importanza, la stessa imponenza della vita di società, e l'aula si trasforma ai miei occhi in una stanza signorile, in una via affollata di gente, in un castello pieno di vecchi e lunghi corridoi, in un ufficio pubblico, in un gabinetto di scienziato, nel salotto di una signora, insomma, in tutto il possibile, a seconda dei casi. Dobbiamo entrare, salutare, inchinarci, parlare, sbrigare affari o incarichi immaginari, eseguire commissioni. Poi, tutto a un tratto, ci troviamo seduti a tavola e mangiamo secondo le usanze della capitale, serviti da camerieri. Schacht, o magari lo stesso Kraus, finge di essere una gran dama dell'aristocrazia e io mi dedico a intrattenerla. Poi invece siamo tutti cavalieri, compreso Pietrone, che del resto si sente sempre in quella parte. Poi balliamo. Saltelliamo qua e là, seguiti dallo sguardo sorridente della maestra, e tutto a un tratto corriamo in soccorso di un ferito che è stato investito da una vettura per strada. Doniamo qualche soldo a supposti mendicanti, scriviamo lettere, sbraitiamo coi nostri garzoni, andiamo alla dunata, cerchiamo luoghi dove si parla francese, ci esercitiamo a fare scappellate, parliamo di caccia, di finanza, d'arte, baciamo ossequiosi a dame che presumiamo ben disposte verso di noi le cinque deliziose dita che esse benignamente ci tendono. Andiamo in giro da girelloni, centelliniamo caffè, mangiamo prosciutto al vino di Borgogna, dormiamo in letti immaginari e altrettanto fintamente ci alziamo alle prime luci del mattino, diciamo «Buongiorno, signor pretore», ci picchiamo perché nella vita capita spesso anche questo e insomma facciamo tutto quello che può succedere nella vita. Se siamo stanchi di tante stupidaggini, ecco che la signorina batte la sua bacchetta sul bordo del tavolo e dice «Allons, forza ragazzi, al lavoro!» e si riprende a lavorare. Giriamo attorno nella camera come vespe, un movimento da non dirsi, e quando di nuovo non ne possiamo più, la maestra grida «Come? Siete già stufi della vita di società? Avanti, avanti! Fate vedere com'è la vita! È lieve, ma bisogna essere svegli, se no la vita ci schiaccia!» E via, si ricomincia. Partiamo per viaggi durante i quali la nostra servitù fa ogni sorta di sciocchezze. Studiamo nelle biblioteche. Siamo soldati, vere e proprie reclute, e dobbiamo stenderci e sparare. Entriamo nei negozi per comprare, nei bagni pubblici per bagnarci, nelle chiese per pregare Dio non ci indurre in tentazione. E un momento dopo siamo caduti nel fondo dell'errore e pecchiamo. «Fermatevi, per oggi basta», dice infine, quando è venuto il momento, la signorina. Allora la vita è spenta e il sogno a cui si dà il nome di vita umana cambia di direzione. Allora per lo più vado a farmi mezz'ora di passeggiata. Nel parco mi siedo su una panchina e lì incontro sempre una ragazza, penso che sia una commessa. Ogni volta piega la testa verso di me e mi guarda a lungo. Troppo sospirosa. D'altronde mi crede un tipo distinto con salario mensile. Ho l'aria così per bene, così da persona a modo. Si sbaglia e per questo la ignoro. Di quando in quando ci divertiamo anche a recitare. Recitiamo commedie che degenerano in farse finché la nostra insegnante ci fa cenno di smettere. La madre. Non posso concederle in moglie mia figlia, lei è troppo povero. L'eroe. Povertà non è vizio. La madre. Ma che, frasi fatte! Quali sono le sue prospettive? L'amorosa. Mamma, con tutto il rispetto che ti debbo, sono costretta a pregarti di parlare più gentilmente all'uomo che amo. Madre. Silenzio! Un giorno mi sarai grata di questa mia inesorabile severità. Mi dica, signor mio, si può sapere dove ha compiuto i suoi studi? Eroe. È polacco, perciò la parte è affidata a Cilinski. Signora, ho il diploma dell'Istituto Beniamenta. Mi perdoni se glielo dico con tanto orgoglio. Figlia. Oh, mamma, vedi che contegno, che belle maniere. Madre, severa. Lascia stare le belle maniere. È un pezzo che nessuno bada più ai modi aristocratici. Ma lei, signore, mi dica per cortesia che cosa ha imparato all'Istituto Bagnamenta? Eroe. Beniamenta, scusi, non Bagnamenta, è il nome della scuola. Che cosa ho imparato? Beh, per essere sinceri, devo dire che ho imparato ben poco. Ma al giorno d'oggi non ha più importanza il sapere molte cose. Lei stessa deve ammetterlo. Figlia. Hai udito, cara madre? Madre. Taci, cattiva figlia. Come osi chiedermi se ho dato ascolto a simili chiacchiere e tanto più se le ho prese sul serio? Mio grazioso giovincello, mi usi la cortesia di andarsene e di non farsi rivedere mai più. Eroe. E si ha l'audacia di darmi quest'ordine? Ebbene, sia, addio, me ne vado. Esce, eccetera. L'intreccio di questi nostri piccoli drammi ha sempre un riferimento alla scuola e a noi allievi. Un allievo conosce i più svariati destini, buoni o cattivi, così alla rinfusa. Ha successo nel mondo oppure il più completo insuccesso. E si termina sempre con la celebrazione e l'esaltazione simbolica di chi serve in modestia. La felicità serve. Tale è la morale di tutta la nostra letteratura drammatica. Durante gli spettacoli la signorina si presta a rappresentare il pubblico in sala. Finge di sedere in un palco e col binocolo guarda la scena, cioè guarda noi che recitiamo. Il peggior attore di tutti è Kraus. Non è per niente adatto a questo genere di cose. Il migliore è senz'altro Pietrone. Anche Heinrich è delizioso sulla scena. Ho la sensazione un po' oltraggiosa che nella vita non mi mancherà mai da mangiare. Sono sano, lo rimarrò e ci sarà sempre modo di servirsi di me per qualche uso. Non sarò mai di carico al mio stato, alla mia comunità. Un simile pensiero, ossia la certezza di aver sempre il proprio pane quotidiano come uomo di bassa estrazione, mi ferirebbe profondamente se fossi ancora il vecchio Jakob von Gunten, se fossi ancora il rampollo, il virgulto della mia casata, mentre invece sono diventato qualcosa di completamente diverso. Sono diventato un uomo comune. E del fatto di essere diventato tale sono debitore e beniamenta. E ciò mi riempie di una fiducia indicibile, luminosa, madida della rugiada della soddisfazione. Il mio orgoglio, il mio atteggiamento verso l'onore è mutato. Come mai sono giunto così giovane a degenerare? Ma si può parlare di degenerazione? In certo senso sì. Ma in altro senso significa proprio conservazione della specie. Forse proprio come entità sperduta e dimenticata nell'immensità della vita, potrò rimanere un più puro, un più fiero von Gunten che non se fossi rimasto a vantarmi del mio albero genealogico, appassendo, smidollandomi e ammuffendo a casa mia. Su via, vada come deve andare. Ho fatto una scelta, punto e basta. Sento in me una strana energia che mi spinge a conoscere la vita dal fondo, un desiderio incoercibile di pungolare uomini e cose ad aprirsi a me, A questo riguardo mi viene in mente il signor Beniamenta. Ma voglio pensare ad altro, cioè non ho più voglia di pensare a nulla.